Allora, non è una novità, l'abbiamo detto soprattutto quando abbiamo iniziato a parlare del sito e di un premio che non risolve il problema, ma che poteva aiutare a premiare lavoratrici e lavoratori che lavorano da tempo in una situazione un po' stretta. Sappiamo che ci sono i lavori, i problemi ci sono, non è una novità questo. Il premio di sito è per, come dire, un riconoscimento a lavoratrici e lavoratori, visto anche che, come dire, il traffico su Bologna è in costante aumento e quindi anche i profitti. Esatto, quindi se continuiamo a vedere che i profitti sono sempre più alti, l'aeroporto comunque continua a guadagnare, è una divisione, un minimo del compenso alle persone di tutto l'aeroporto. In questo caso io posso parlare di chi lavora per il gestore, per l'Enver, ma poi un domani si potrà vedere. In ogni caso, per tutti un riconoscimento in più del fatto di lavorare all'interno di una situazione un po' complicata, e non c'entra nulla con la contrattazione di primo o di secondo livello, l'abbiamo già chiarito. Su questa cosa noi abbiamo l'avvertenza aperta e un prossimo sciopero dichiarato già per settembre. Infatti avete fatto uno sciopero il 5 luglio, ne farete un altro, la dirigenza non vuole sentirne? La dirigenza non si muove né di ADB, ma nessuna azienda, ma soprattutto posso anche dire che abbiamo chiamato in ballo anche le istituzioni, perché il problema riguarda un po' tutti, e visto che dopo il primo sciopero non si è mosso nulla, abbiamo dichiarato il secondo, al di là della franchigia estiva, il prossimo sciopero sarà il 24 di settembre, se non interviene nulla prima. Voi denunciate anche un'altra cosa, che è l'esternalizzazione di MBL. Di cosa si tratta? Allora, in questo caso si tratta di un pezzo delle attività dell'aeroporto di Bologna che è abbastanza redditizia, che è la sala VIP, si chiama Marconi Business Lounge, che all'interno della quale operano persone che lavorano per l'aeroporto di Bologna. Questa parte, ci dicono, verrà esternalizzata, ma non l'hanno nemmeno detto ai sindacati prima. Diciamo che l'abbiamo un po' saputo all'ultima ora, e quindi noi contestiamo sia il fatto di non averlo detto con i tempi necessari rispetto al fatto che hanno anche un protocollo, sia al fatto che ci sono dei lavoratori, lavoratrici e lavoratori che lavorano lì, vogliamo capire che fine fanno, e soprattutto se vendono quel lavoro ad altri, che contratto applicheranno. Abbiamo aperto un'avvertenza e oggi abbiamo un incontro proprio dentro l'avvertenza, quella sull'MBL. Insomma, più in generale c'è qualche problema all'interno del Marconi, insomma, anche per quanto riguarda le relazioni sindacali? Sì, diciamo che noi siamo comunque sempre molto attivi, molto aperti a trovare delle soluzioni, però quando vediamo il muro a quel punto reagiamo. E noi ci siamo, però è evidente che il lavoro va avanti grazie a chi è qui tutti i giorni, H24, svegliandosi, come ho già detto, alle 3 del mattino, magari andando a letto alle 4 del mattino e facendo i turni, e quindi basta venirsi un attimo incontro, perché lo sviluppo dell'aeroporto era previsto, ma essendo così immediato qualche problema ce l'ha, e quindi perché non premiare chi porta avanti il lavoro.